24. La storia. Francesco Pinto, direttore della sede RAI di Napoli, è autore de La strada dritta, un romanzo storico sulla costruzione dell'autostrada del Sole. Nel suo libro racconta questa storia quasi come un'opera leggendaria. Perché? Perché fu un'opera leggendaria. Perché in meno di 8 anni costruirono 755 chilometri di strada dritta, mai fatta in Italia e mai fatta nemmeno in Europa. Pensate che è un record di costruzione che ancora oggi rimane imbattuto. Quindi per i tempi leggendaria? Per i tempi e anche per le difficoltà. Affrontarono l'Appennino che era per la costruzione dell'autostrada e lavorarono 24 ore su 24 per 4 anni. Impensabile oggi? Oggi non lo so se è impensabile. Quello che so è che allora ci fu un gruppo di persone che sognarono un'impresa e la fecero, perché attenzione, l'autostrada del Sole non è un'autostrada, è un progetto politico, è un progetto che mette insieme Milano e Napoli, ci volevano 2 giorni e mezzo per arrivare da Napoli a Milano e da Milano a Napoli, dopo l'autostrada ci bastano 8 ore, ed è così chiaro che è un segno politico questa strada, che se voi la percorrete... Il chilometraggio non è fino a Roma, ma è appunto da Napoli a Milano e viceversa. Il capo responsabile della costruzione dell'autostrada è l'ingegnere Fedele Cova. Come lo definirebbe lei? Era un uomo con una grande capacità di decisione e di assunzione di responsabilità. Ed era un uomo che non aveva, come dire, non faceva né compromessi né indulgenze. Quando si cominciò a costruire l'autostrada, a un certo punto ci furono una serie di pressioni per intitolare ponti e viadotti a santi o persone illustre della località dove attraversava, che veniva attraversata dall'autostrada. Era una cosa che a lui non gli costava nulla. Bene, disse di no a tutti: se voi attraversate l'autostrada del Sole, tutti i ponti e tutti i cavalcavia hanno semplicemente il nome della località. Fece una sola eccezione, il ponte sull'Arno a Firenze, perché quello è l'unico ponte che si chiama con un nome, si chiama Ponte Romita. Romita è il ministro che nel 55 fa il piano autostradale e che non vide nemmeno un chilometro di autostrada inaugurata, morì prima. E Cova disse: con lui ho iniziato e con lui devo finire. Insomma, era un uomo straordinario come tanti. Quello che mi lascia molto perplesso è che, per esempio, di quest'uomo non c'è una piazza, non c'è una strada, non c'è nulla in tutta Italia intitolato a lui. Senta, Francesco Pinto, ma come mai ha deciso di raccontare questa storia? Ma la domanda non è come mai io ho deciso di raccontare questa storia, la domanda è perché non è stata raccontata fino a oggi. Perché? Perché quelli sono, me lo sto domandando anch'io, quello che io credo è che questo sia un paese che però ha dimenticato di raccontare la sua identità e la sua epopea. Quegli 8 anni che vanno dalla prima pietra all'inaugurazione finale sono 8 anni straordinari del paese, sono gli anni dell'autostrada del Sole, sono gli anni del progetto San Marco, l'Italia è il primo paese, il terzo paese al mondo che lancia un satellite, sono gli anni del premio Nobel Annatta che inventa il Moplen, la forza invece di quella generazione che parte nel 56 andando a New York cercando dei soldi che non aveva e cercando di copiare un progetto dell'autostrada che non era finito. Copiarono alcune cose, gli svincoli delle nostre autostrade sono uguali a quelli americani, non trovarono i soldi e tornare se la fecero da soli l'autostrada. E 8 anni dopo lo stesso gruppo tornò a New York, ma non tornò più né da straccioni né col cappello in mano. Andò in un museo, era il MoMA, con una grande mostra che si chiamava An Italian Masterpiece, un capolavoro italiano, dove i newyorkesi potettero vedere le fotografie e i plastici dei ponti e dei viadotti che avevamo fatto, e la definirono un'opera d'arte. Siamo un paese che allora produceva cose e produceva bellezza. Credo che dovremmo, come dire, costantemente ricordare tutto questo. Ha aperto finalmente l'ultimo tratto dell'autostrada del Sole tra Chiusi e Orvieto. L'intera opera, completata con 3 mesi di anticipo sul previsto, fu iniziata nel maggio del 56. Il 4 ottobre del 1964 un nugolo di autorità sbarca dalle berline presidenziali per celebrare un successo. Il più grande dei progetti infrastrutturali della Repubblica è compiuto. Qui a Radio 24 vi raccontiamo una storia lunga 755 chilometri. Un viaggio nell'arteria pulsante della nazione. è la storia della realizzazione delle autostrade, il boom dell'autostrada. Qui è Vittorio Mangili che vi parla dall'ingresso di Milano dell'Autostrada del Sole. Qui Napoli, è Baldo Fiorentino che vi parla dall'ultimo casello, dal terminal dell'Autostrada del Sole. Certo, di strada ne abbiamo fatta, e anche di strade. Le strade, un simbolo dello sviluppo italiano e un angolo per raccontare. Ma com'era l'Italia prima dell'autostrada? Roma, parte il quinto rally del cinema. I divi della celluloide si scagliano con le loro macchine sulle strade d'Italia. Ai bordi di esse li attendono gli applausi e i fiori. Due volte al giorno, all'entrata e all'uscita dalle fabbriche, la vecchia strada ringiovanisce, invasa da sciami di ragazze in bicicletta. Bloccano tutta la carreggiata. Sono quasi tutte belle. Finita la guerra, strade malmesse, affollate di biciclette e mezzi di fortuna insufficienti ai bisogni di spostamento degli italiani. Dal 45 al 55 i veicoli si moltiplicano 8 volte. Lambrette vespe motorizzano le famiglie italiane con non poche differenze tra nord e sud. Così lo scrittore Manlio Canconi. L'Italia era divisa in due, nettamente ancora divisa in due. Io avevo fatto qualche viaggio nel sud, insomma, le condizioni del mezzogiorno erano tremende rispetto a quello che accadeva da Roma in su e particolarmente dall'Appennino al nord. Cioè... Torino è stata la città di Einaudi, scrittore e scienziato. Vi torno ancora una volta oggi ad inaugurare il Salone dell'Auto. Guidato da Gianni Agnelli, egli ammira la giovanissima e subito vittoriosa 600. L'industria privata ha progettato un'Italia a 4 ruote. Fatte le automobili, bisogna fare gli automobilisti. E a questo avrebbe pensato la neonata televisione di Stato. La RAI, che trasmette dal 54, sperimenta con le campagne di educazione stradale la sua ambizione divulgativa. Questo è il ricordo di Enzo Biagi. All'inizio erano pochi quelli che avevano in casa questo elettrodomestico, come lo chiamò Edoardo De Filippo. E avete visto gli automobilisti come sono gentili fra di loro e come si salutano dai finestrini? Così, le automobili sono diventate ceste di lumache. Dal sud si emigra al nord per lavorare nelle grandi fabbriche del settentrione. Sono gli anni in cui ci si scontra con le priorità da dare allo sviluppo italiano, industrie, case, ospedali, scuole. A un paese che sta crescendo occorrono linee guida, decisioni chiare sulle strade da intraprendere. Sono gli anni del boom, della pianificazione economica, del patto decennale di sviluppo voluto dal ministro delle finanze Vanoni. Dei 900 miliardi di vecchie lire per il progetto di ripristino stradale stanziati dal ministro dei lavori pubblici Aldisio, sino alla più cospicua richiesta del suo successore Giuseppe Romita. E per questo abbiamo un programma di circa 1.200 miliardi per le sole autostrade e parecchie centinaia di miliardi per le strade. E io ho la convinzione che il pubblico pagherà volentieri le tasse di circolazione, pagherà volentieri il prezzo sui carburanti per avere una rete stradale perfetta, anche se qualche volta deve purtroppo borbottare perché non riesce a trovare il posteggio libero per la propria macchina. Sta per partire quello che poi fu chiamato il miracolo italiano. Grazie all'IRI nel 1946 viene costituita la società Autostrade per la costruzione di ben 755 chilometri per unire nord e sud, a cui partecipano i 4 giganti dell'industria italiana. Così nelle parole di Giuseppe Centolani. Bastano i nomi, la Fiat, la Pirelli, l'Agip e l'Italcementi. Perché facendo le autostrade loro avevano interesse. D'altra parte era più rapido da fare che non le ferrovie, anche se a rigore. Il 14 aprile 1956 la costruzione della futura autostrada Milano-Napoli venne affidata con decreto interministeriale all'IRI, che creò la società Concessioni e Costruzioni Autostrade, una società di diritto con 1 milione di lire di capitale. Ai privati la produzione dei beni, allo Stato la costruzione dei servizi. Il mio primo incontro con l'autostrada è stato che non si pagava il biglietto perché ancora non era inaugurata e qualcuno mi ha detto, un amico, guarda, fai prima andare a Bologna se la infili subito a San Donato Milanese. A San Donato venne costruito a tempo di record un facsimile lungo 100 metri della futura autostrada. Il presidente dell'IRI, Aldo Fascetti, aveva chiamato a realizzare questa autostrada Fedele Cova, sino da allora presidente della Cementir. Un'assoluta inesperienza in materia, ma una grande volontà e le idee chiare sul futuro sviluppo italiano. Queste le sue parole. Cominciamo a dire che l'automobile è il grande mezzo che ha permesso all'operaio, al contadino, di finire il proprio isolamento e di sentirsi e di essere qualcuno in una società di uguali. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, stiamo raccontando la storia di un miracolo italiano, la costruzione delle autostrade in Italia. Se in Italia le autostrade non si sapevano costruire, si poteva andare in America per copiarle. E proprio nel settembre del 1956 Fedele Cova e i suoi più stretti collaboratori attraversano l'oceano sulla Cristoforo Colombo e si recano in Stati Uniti per studiare le autostrade americane. Ormai, infatti, per gli Stati Uniti siamo diventati dei preziosi alleati. Sono veramente lieto di essere uno dei tanti americani che guidano e apprezzano le macchine Fiat che circolano in questo paese. La Fiat, nata tra le Alpi, si trova perfettamente a suo agio nel convulso traffico di New York. I 4 giorni di viaggio di ritorno sulla nostra bella nave furono i più intensi della mia vita. Vedevo ben raramente il mare. Le nostre giornate erano interamente dedicate a passare in rassegna tutti gli elementi che, fusi insieme, sarebbero diventati il progetto definitivo. Nel febbraio del 1957 potevamo presentare all'ANAS il progetto di trasformazione del corpo stradale in quello di una moderna autostrada a pedaggio. Era talmente rivoluzionario che nessuno dei funzionari ANAS voleva assumersi la responsabilità di avallarlo. 3 mesi di fermo, poi alla fine di maggio il ministro Romita fa visita ai lavori in Appennino e dopo una settimana l'ANAS dichiara che il progetto poteva essere approvato. Ai giornalisti annuncia che entro 2 anni, a seguito della sua legge, gli italiani sarebbero potuti andare in automobile da Milano a Firenze. E il progetto però in realtà è ancora fermo e Fedele Cova, a cui è stato affidato, dice con forza: lei sa che il nostro progetto giace da 3 mesi nei suoi uffici, senza quello non possiamo continuare. Ora lei mi deve promettere di intervenire e di sbloccare la sua burocrazia. Dopo una settimana l'ANAS dichiarò che il progetto poteva essere approvato. Ma cosa voleva dire costruire un'autostrada che collegasse l'Italia dal nord al sud? Nessuno dei suoi parenti ha l'automobile? Sì, ho 2 cugini che hanno l'automobile. E ce la portano mai sull'automobile? Sì, sì, sì. Dove va? Vado a trovare i parenti a Lecco e a Brescia. Nella percezione degli italiani l'utilità dell'autostrada non è ben definita. Così Enzo Biagi. È molto difficile capire dove si sta andando. Intanto l'Italia è certamente progrediva e questo lo capivano tutti quelli che per esempio appartengono alla mia generazione. C'era un altro modo di vivere, il costume cambiava profondamente. Quello che accadeva era che gli italiani stavano meglio e Giorgia Mendola mi disse una volta, che lui che rappresentava anche l'opposizione, gli italiani non sono mai stati tanto bene come adesso. Le ultime 1000 miglia, quelle del 1957, passano attraverso un paese profondamente rinnovato. Sono alla partenza le macchine di tutti i giorni. La vecchia Topolino che ha superato la guerra, la 600, la macchina per tutti, la macchina della motorizzazione di massa. Parte una Giulietta, l'auto dalle elevate prestazioni, dedicata agli amanti della linea e della velocità, dotata di un motore che ha segnato una tappa nella tecnica motoristica. La Fiat vuole trasformare la sua ultima creatura, la 500, in un bene di massa. A pochi giorni dall'incasso delle 13esime ne abbassa il prezzo e introduce il meccanismo della rateazione. È un boom. Con meno di 10 stipendi anche l'operaio può acquistare un'auto nonostante gli occorra un'intera giornata di lavoro per comprare un solo chilo di carne. Sulla carta delle strade d'Italia verrà presto stampata una grande T, simbolo di traffico, turismo, tranquillità per l'automobilista. L'autostrada Torino-Milano-Venezia-Trieste e la nuova autostrada del Sole costituiranno il centro vitale della viabilità italiana. Il primo biglietto fu emesso l'8 dicembre 1958, come ricorda il casellante di turno Mario Pasetti. Che entrò, io distribuì il primo biglietto alle ore 17 esatte dell'8 dicembre 1958. Credo di ricordare che fosse una Fiat 1100. L'anziano cavalier Rizzani, costruttore del ponte sul Po, nel giugno del 57 incontra l'onorevole Togni, succeduto a Romita come ministro dei lavori pubblici. Preso dall'entusiasmo per l'imponenza dell'opera, gli promette una decorazione se avesse rispettato i tempi di consegna. Queste le parole del costruttore. È stata una delle prime opere in calcestruzzo precompresso che sono state realizzate in Italia. Io mi ricordo tutta una serie di personaggi molto importanti allora che hanno partecipato a questo evento, che in pratica significava l'inizio di un congiungimento fra le due capitali, no? Roma e Milano. Agile e ardito nelle sue essenziali linee architettoniche, è sorto al chilometro 72 da Milano, sull'autostrada del Sole, il primo autogrill d'Europa a cavallo di una via di grande comunicazione. Il nastro inaugurale viene tagliato dal sottosegretario agli interni Scalfaro. Gian Jacopo Bianchetti, architetto, figlio di Angelo Bianchetti, progettista di tutti i grill pavesi, simbolo di benessere economico e di progresso, avanguardia del boom dei consumi, così ricorda il 1959 e i primi autogrill. Aveva delle tende di color arancione e questo è stato l'inizio di un'immagine voluta per tutti gli autogrill, in modo tale che chi percorreva l'autostrada doveva riconoscere a distanza che stava arrivando l'autogrill pavese. Io mi adoro, a me piace tutto di te. Gli autogrill offrono creme, consommé in tazza, creme di asparagi, di funghi. La pasta asciutta non ce n'è per evitare che i pasti siano troppo pesanti da indurre sonnolenza. I primi incidenti gravi, infatti, nel tratto stradale furono determinati proprio da questa causa. Datemi chiacchiera, se non m'addormo. Parlate, cantate. Tua, solamente tua, tua. E de tu nonno. Gli italiani corrono. Sono corsi a farsi la macchina prima ancora del frigorifero o della lavatrice. E le macchine sono fatte per correre. All'altezza di Modena, un monumento celebra questa passione. Il mito della rossa. Comunque il futuro della mia fabbrica sarà una cosa abbastanza modesta. Così Enzo Ferrari sbaglia ogni previsione rispetto al futuro della sua azienda, che invece diventerà il simbolo dell'Italia nel mondo. Intanto la RAI, fedele ai suoi principi divulgativi, insegue la follia italiana per la guida e la corsa di quegli anni. Questo è il ricordo di Edoardo Vianello. La 600 l'ho tenuta per un anno e non so quanti bidoni di acqua ho dovuto utilizzare per farla marciare. Conoscevo tutte le fontane. E questa la Pantera Nera. Perché si chiama la Pantera Nera? Questa è la macchina più forte del mondo. No, ma dico, perché è nera, è grigio. Il grigio l'avevo battezzata io, Pantera Nera. Infatti la macchina che mi comprai dopo era una macchina con raffreddamento ad aria, perché non gliela facevo più. L'autostrada è ancora lunga, chi lo sa se arriverò con il cuore già in riserva e il motore che non va. Questo cuore perde i colpi, gira con difficoltà. Mix 24, la storia. Bentornati su Radio 24, stiamo raccontando la storia del boom dell'autostrada in Italia. È il 1960, in Italia le automobili in circolazione sono passate da poche centinaia di migliaia a diversi milioni. L'autostrada del Sole è già completata fino a Bologna, dove sorta un'area di servizio celebre, il Cantagallo. Questa è la memoria del presidente dell'ACI, Riccardo Artelli. L'autostrada è ormai il futuro della circolazione. Direi specialmente in un paese come l'Italia, che per la sua configurazione geografica ha bisogno di autostrade per ravvicinare città che altrimenti restano lontanissime. Anzi, io consiglierei ai giovani di avviarsi verso tutte le professioni accessorie a quello che attiene l'autostrada. È il 1960 e il prezzo della benzina diminuisce perché il governo ha ormai capito che il suo interesse coincide con quello degli automobilisti. Infatti il maggior consumo di benzina ha portato nel 1960 50 miliardi in più nelle casse dello Stato italiano. Come ha colto la notizia della diminuzione del prezzo della benzina? Molto bene, capirà, io ho un'utilitaria, è poco tempo che l'ho comprata e poi ho anche dei pensieri, che con la benzina che costa così cara come si fa? Quest'anno invece me ne andrò in villeggiatura un po' più lontano. Nel 1960 vi è pure stato un altro ribasso, graditissimo. In occasione del Salone dell'Automobile di Torino, alcune fabbriche di autoveicoli hanno annunciato la diminuzione dei prezzi di molti modelli. È così cominciata la battaglia entro e fuori del mercato comune europeo. Nel 1960 il mercato ha bisogno di nuovi clienti. Dopo aver motorizzato gli uomini, è il momento delle donne. Una graziosa novità sono le radioline con Trus Porta Rossetto e Porta Cipria. Tu sei romantica, amarti un po' di vivere. Il 1953, l'epoca pionieristica della Coppa delle Dame, è ormai lontana. L'automobile è diventata un mezzo universale per tutti i sessi. Uguaglianza, senza naturalmente esagerare. La costruzione dell'autostrada procede e inizia la scalata dell'Appennino tra Bologna e Firenze. Una muraglia fra due mondi, l'arteria della nazione incrocia la sua spina dorsale. Per realizzare il prima possibile il tratto appenninico si reclutano montanari. I paesi si svuotano, tutti gli uomini vanno a vivere nelle baracche ai margini dei cantieri. Così nel ricordo dei costruttori Lucillo Ornati e Mario Tonelli. Questi contadini venivano e volevano sapere che cosa facevamo magari nel loro terreno, insomma. E noi non dicevamo che stavamo studiando un'autostrada, ma che stavamo studiando un elettrodotto. Avemmo un'unica convocazione a Roma, dove carta geologica alla mano e avendo degli importantissimi geologi al nostro fianco, mettemmo in evidenza come il tracciato dell'autostrada che loro avevano scelto e poi realizzato correva nel tratto Bologna-Firenze in buona parte su terreni franosi, pericolosi. Il direttore generale dell'ANAS mi batté la mano sulla spalla e disse: ma ingegnere, io non avevo detto parola, ero stato zitto, ma ingegnere, qualche franerella l'avrete anche voi sul vostro tracciato. Da parte dello Stato c'è una grande e deliberata volontà di compiere questa opera. E non c'erano neppure tanti vincoli per gare ed appalti. Infatti il tratto Firenze-Bologna di appena 73 chilometri fu assegnato a 27 imprese differenti. E sono uscite praticamente 27 tipi di soluzioni. Qualcuno ci ha accusato un po' di aver fatto l'autostrada Arlecchino, insomma, questo è vero, questo lo riconosco anch'io. Però solo attraverso questo sistema siamo riusciti in tempi brevi a eseguire l'autostrada e a fare un'esperienza formidabile che non è servita solo all'Italia ma è servita a tutto il mondo. Rimane ormai solo da battere un sottile simbolico diaframma di roccia. Il compito è affidato al ministro Togni che con un semplice gesto ha così completato i lavori del primo traforo stradale dell'Appennino. Nelle sue memorie Cova confiderà. Nei primi anni che seguirono il completamento dell'autostrada, mi capitava di svegliarmi la notte, in preda all'incubo che uno dei miei viadotti fosse crollato. 37 aree a rischio di frana, 2 chilometri sono stati sostituiti dalla variante Banzole. Il 3 dicembre del 60 tutto è pronto. Inaugurata la Firenze-Bologna, nuovo tratto dell'autostrada del Sole. Il presidente del Consiglio, onorevole Fanfani, sarà il primo a percorrerla. Sono 85 chilometri e ogni chilometro meriterebbe un'inaugurazione a parte. Tanto è imponente il succedersi di viadotti, gallerie, ponti stupendi dalle linee coraggiosissime. In 45 minuti una buona vettura può trasferirsi dal capoluogo della Toscana alla ridente Bologna. Si raggiunge quota 700 sull'Appennino senza accorgersene. In alcuni tratti la strada è costata 1 miliardo al chilometro, ma sull'intero percorso i ponti e le perfette gallerie sono più di 200. Allora si sbagliavano continuamente le previsioni di incremento della circolazione. Per cui, in effetti, se l'autostrada del Sole fosse partita subito con tre corsie, sarebbe stato decisamente meglio. Perché era così difficile fare previsioni corrette di traffico? Eppure la Casa di Torino generava un indotto enorme, dagli accessori alle gomme, dalla benzina all'acciaio, alle strade, al turismo, ai viaggi. La crescita del traffico era esponenziale, il trasporto privato vince la battaglia col trasporto pubblico. La gomma batte il ferro, l'auto sconfigge il treno e lo lascia indietro. I nuovi clienti a cui si indirizza il mercato delle automobili sono soprattutto i giovani. Ci sono apparecchi sempre più nuovi, perfezionati, sorprendenti, come questo ultimissimo modello di autoradio che ha per slogan tutta la musica che preferite. Si tratta di un apparecchio che legge con precisione assoluta i nastri incisi, di comoda e facile applicazione, di dimensioni ridotte, pratico da manovrarsi. Buonasera. Il Cantagiro prosegue la sua corsa attraverso l'Italia. Alla nostra autostrada manca solo il tratto tra Firenze e Roma. Nel 62 si completa quello da Roma a Napoli. Anche il sud è collegato alla capitale. Da Napoli a Roma, una più diretta e moderna via di traffico e di prosperità economica. Nel 1961 viene varata la legge Zaccagnini, dal nome del ministro dei lavori pubblici nel nuovo governo Fanfani. Una legge che mira ad estendere la rete autostradale italiana fino a 4.700 chilometri in 10 anni. Venendo da Bologna si proseguirà diritti lasciando a destra l'uscita di Firenze Nord e Roma disterà solo più 273 chilometri. Ma i lavori della Firenze-Roma vanno a rilento a causa di una disputa violenta tra interessi locali. Umbri e toscani si contendono il passaggio dell'autostrada e in Toscana la lotta è fra aretini e senesi. Lo scontro di campanile finisce per diventare nazionale a suon di progetti, varianti, interpellanze e accesi convegni. La Toscana tutta si batte a Chianciano perché l'autostrada del Sole passi attraverso la regione di Dante e Michelangelo. Questo è il tema del convegno tenutosi nella cittadina termale. Decisamente a favore della tesi toscana e contro il progetto che vuole l'autostrada del Sole in Umbria, ha parlato il presidente dell'amministrazione provinciale di Viterbo, Ferdinando Micala. No, perché il nonno, sai, quello vuole la risposta, vuol sapere. Che il ministro mi ha detto, beh, vedremo, dipende, dice però... Il nonno, suo nonno, l'autostrada la vuole troppo lunga, per farla così lunga bisognerebbe spostare il paese. Vi conviene a voi spostare un paese? Anche il cinema ironizzava sugli interessamenti dei ministri di allora. All'epoca si parlava di una leggendaria curva Fanfani. Nel 1963 la rivista Quattro Ruote ne fa un caso. Si dice che il primo ministro la voglia energicamente e l'abbia tracciata di suo pugno sulla carta con una matita rossa per avvicinare il tracciato alla natia Arezzo. La politica dei fatti compiuti che caratterizzava l'operato di Fedele Cova tosse poco a poco il terreno ai sostenitori di varianti e percorsi alternativi. Il progetto originario fu inaugurato il 4 ottobre del 1964. San Francesco, patrono d'Italia. L'autostrada del Sole era finalmente completata. In quell'anno gli italiani erano arrivati a possedere 5 milioni di automobili. Il primo giorno... Il pedaggio era gratuito, si poteva percorrerla senza pagare il biglietto. Io voglio per me le tue carezze. E gli automobilisti? Qual è il loro parere? Favorevoli o contrari all'autostop? Io sono contrario in particolare ai cappelloni. Perché? Il cattivo odore capisce che in linea generale lasciano. Musiche, donne, motori, trasgressioni, strade, automobili, mode, tutto invecchia. Così il padre dell'autostrada, Fedele Cova. Ha visto sorgere in totale 544 nuove industrie ai suoi margini, con 37.000 addetti e che pagano ogni anno 42 miliardi di lire di sole remunerazione ai propri dipendenti. Come a Roma, coloro che sono andati in gita sull'autostrada tornano a casa. Ad ogni stazione, piccola o grande che sia, la stessa fila di auto che scivolano agevolmente dalla strada verso i centri abitati. È così a Napoli, a Roma, a Firenze, a Bologna, a Milano. Finisce così il giorno di festa. Da domani l'autostrada sarà uno strumento di lavoro, qualcosa che servirà a migliorare l'Italia. X24, la storia. Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. L'anniversario dei 50 anni dell'Autosole, cosa significa per voi? Beh, innanzitutto è un atto doveroso di celebrazione di un'opera importante per il Paese, celebrazione di chi l'ha fatta e purtroppo anche chi ha perso la vita per farla, e non sono pochi, ma è anche l'occasione per guardarsi un po' allo specchio, per capire quanto siamo differenti da quell'Italia così di successo, così diversa da quella di oggi. Ecco, infatti, l'Autosole è stato un po' il simbolo della rinascita del paese. Era una grande impresa pubblica, adesso è privata. Qual è il valore aggiunto, se c'è, nell'essere privata? Ma posso dire che guardando come operava l'IRI in quei primi anni degli anni 50, ci si rende conto che il modo di operare era esattamente in linea con quello che farebbe una società privata in termini di capacità di prendere decisioni, velocità. Poi nel corso degli anni, a partire dagli anni 70, è stata tutta un'altra storia. Impresa pubblica ormai vuol dire una cosa ben diversa da quella che era Autostrade in quegli anni 50. E il valore aggiunto allora qual è oggi? È di essere di nuovo l'IRI di prima? Il valore aggiunto è di essere in grado di operare, contrariamente a come ormai sono in grado o costrette a operare le imprese pubbliche, con velocità. Capacità di prendere decisioni, disponibilità finanziaria, che non sono sicuramente da trascurare, visti i problemi di ristrettezza economica dei budget pubblici, e devo dire in termini di sicurezza, con un tasso di mortalità molto migliorato, ridotto a un quarto addirittura dopo la privatizzazione del 99, investimenti moltiplicati per 5, asfalto drenante, pensiamo di poter dimostrare la differenza rispetto a una gestione pubblica degli ultimi anni. Senta, intanto però, mentre l'Autosole è stata fatta in 8 anni, la variante di valico tra Bologna e Firenze è ancora incompiuta dopo più di 15 anni di lavori. Perché? Perché purtroppo in Italia i tempi di esecuzione delle opere sono scanditi dai tempi delle autorizzazioni. L'ultima autorizzazione l'abbiamo avuta, di quelle importanti, dopo il 2006, quindi i tempi di esecuzione della variante di valico sono esattamente in linea con quelli dell'Autostrada del Sole. Ecco, ma prego. Purtroppo i tempi ormai sono i tempi delle autorizzazioni, il tempo di autorizzazione complessivamente è circa 3 o 4 volte superiore ai tempi operativi di esecuzione di un'opera. Sì, ma come mai allora invece in 8 anni si è riuscito e adesso no? Cioè le autorizzazioni erano più facili? Beh, questo lo sanno tutti gli italiani, ma le do qualche elemento più preciso. Per darle un'idea, il progetto della Firenze-Bologna originario aveva circa un centinaio di tavole di progetti, oggi oltre 20.000. Quindi vuol dire oltre 20.000 progetti che vanno eseguiti, verificati, approvati, autorizzati. Vabbè, ha vinto la burocrazia, ha complicato la vita a tutti. 6-0. Senta, oggi i treni super veloci e la crisi in generale dell'economia stanno in qualche modo oscurando il fascino dell'automobile, quindi anche delle autostrade. Voi come reagite? Beh, sta oscurando il fascino dell'automobile come mezzo per percorrere centinaia di chilometri, ritornare al paese, andare al luogo di lavoro, ma non sta oscurando il fascino dell'automobile come strumento di libertà e di conoscenza del paese. In realtà il traffico non ne sta assolutamente soffrendo, gli italiani semplicemente viaggiano in maniera più frequente andando più vicino per conoscere un paese che forse tutti noi italiani dovremmo conoscere un po' più. Senta, un'ultimissima cosa, i vostri progetti per il futuro quali sono? Beh, noi ci occupiamo di autostrade ma anche di aeroporti. Certo. Per quanto riguarda le autostrade, il nostro progetto è molto semplice: riuscire a tenere a livello elevato gli standard di sicurezza e di manutenzione, minimizzando l'impatto sulle tariffe. Siamo l'autostrada con le tariffe più basse d'Italia e più basse d'Europa e vogliamo rimanerlo. E per quanto riguarda gli aeroporti, l'aeroporto di Roma in particolare, la nostra ambizione sulla quale siamo molto impegnati è quello di fare un aeroporto degno di standard europei, e i primi mesi di gestione del gruppo Atlantia, di cui sono l'amministratore legato, mi hanno dato la soddisfazione di vedere che per la prima volta abbiamo superato in termini di qualità del servizio Francoforte, Madrid, Parigi, aeroporti ben più nuovi e progettati con risorse sicuramente molto superiori. E l'arrivo degli arabi in Alitalia aiuterà questa crescita di Fiumicino? Grazie ingegner Castellucci, grazie mille, buon lavoro, grazie. Arrivederci. strada così è l'unica risposta che ho per incontrarci negli occhi, per stare un'altra notte con te. Se no cos'è in mezzo a questo fiume di automobili che mi fa respirare pensandoti. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.